Federico, una nuova edizione del Bologna Jazz Festival, nonostante le difficoltà, si mantiene la struttura, eventi paralleli, tanta volontà ma anche tanta fatica. Ma sì, la fatica è tanta, più che altro costruire, demolire, ricostruire il programma è stato molto faticoso e anche a volte ti butta giù di morale, però insomma per noi è un segnale importante mantenere il festival, sia per il pubblico che per le istituzioni, gli sponsor. Abbiamo avuto la vicinanza di tutti, quindi ci sembrava doveroso farlo. Credo che sia un segnale per la città anche. In qualche maniera bisogna fare i conti con quello che sta succedendo e cercare di andare avanti adattandoci il più possibile. Certo, e mantenere, ovviamente, domanda che va da sé, ma la facciamo per il pubblico e anche per conoscenza, mantenere anche i motivi di sicurezza, certamente, che saranno attuati nel Bologna Jazz Festival, certamente sì. Ma certamente ci siamo impegnati fin da subito a cercare di offrire una programmazione che potesse corrispondere alla sicurezza del pubblico. C'è da dire però, e io sono molto contento della posizione che ha preso Mauro Fericori, che su centinaia di migliaia di spettatori alla fine i contagiati sono stati uno, quindi questo significa che il sistema dei teatri e in genere della fruizione della cultura funziona il distanziamento e non c'è bisogno di azzerarlo e chiudere tutto. Di colpire in maniera massiva, ecco. Sì, più che altro secondo me bisogna, passato il lockdown, cercare di capire, di andare mirati nelle situazioni problematiche e di cercare di mantenere il più possibile vivo, magari boccheggiante, cioè un sistema che altrimenti salta per aria, ecco. Certo, siamo agli inizi. Cosa ti aspetti, Francesco, di questa avventura? Io mi aspetto che comunque la gente ha voglia di continuare a vivere la cultura, a vivere la socialità, anche se in maniera diversa. I musicisti ancora di più, sono stati dei mesi chiusi in casa, sono saltati tour e suonare in queste condizioni è molto difficile. Noi ci siamo resi conto di una cosa, che c'è uno strumento in più rispetto agli strumenti suonati sul palco. Questo strumento è il pubblico, il calore del pubblico, la vicinanza del pubblico, ma non è una frase fatta. Il pubblico distanziato è un po' più freddo e questi musicisti lo sentono. D'altronde, quando suonavano davanti a uno smartphone da soli in casa, lì si è proprio percepito. Era peggio e si è sentito molto forte. Però ecco, secondo me questo è un momento di passaggio che porterà un momento di maggiore calore, maggiore intensità e consapevolezza da parte dei musicisti di quanto sia importante il pubblico, e del pubblico consapevolezza di quanto è importante egli stesso per i musicisti. Allora, ho visto la grande volontà di mantenere un'ossatura, pur rinnovando, pur cercando risorse nella difficoltà. C'è sempre illustrazione, disegno, gli incontri, la collaborazione e la partecipazione dell'autobus del jazz. Sì, sì, certo. Anche quest'anno il gruppo ERA ci ha finanziato l'autobus del jazz ed è un progetto che va avanti ormai da anni. Molto si vedrà in città, cambia numero ogni giorno, c'è musica dentro, quindi insomma, nonostante il distanziamento e tutto questo, siamo riusciti a mantenerlo. Le illustrazioni di Paolo Vassilieri sono meravigliose, questa collaborazione con Bilbo il Bull, come ogni anno, si conferma sempre con dei protagonisti di alta caratura.